momento. Sì, sono io, sono Marcello Silvano. Ah, ok, Silvano, ben ascoltato, dai. Bene, bene. Come ti ascolti qua in AFM? Io sono a coprirti, ci sono dei vari che ti toccano. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Ehi, buonasera, dai. Doppio numero da questa parte. Ehi, anche tu. E io, come sta andando di radio? Aspetta, devo prendere gli occhiali, anche tu. Devo vedere... ma togli il 9.30, dai, non c'è... Non vatti, avanti, lo smicchia. C'è un po' di propagazione in giro, invece ti facendo di ex, usano i suoi. Benissimo, tu. Questo invece è il 3009 con l'MB più 5. E lo verrei messa. Certo. Adesso arrivi a quello di su. Anto, aspetta che provo un altro microfono, voglio vedere come va col VM1000 modificato la mela. Anto, come va? Guarda, una, due, tre, prova. Più forte dell'altro, perché sono troppo vicino. Guarda così, com'è più forte dell'altro, dell'altro che stavo usando. Buono, è buono anche. Non hai capito, com'è questo qua, più forte o più basso dell'altro? Guarda tu. Io devo sapere se mettere questo o l'altro, ti sto chiedendo qual è più forte. Adesso ne provo un'altra ancora, aspetta. Antonio, Antonio, Anto. Antonio, ascolta, del radio sto uscendo, sto provando un Royce con l'MB più 5, va bene? Sì, leggermente, vabbè, ma io ho spostato l'antenna, quindi devo vedere i segnali adesso. Va bene la radio, Anto? Ok, dai, sto provando un Royce, ciao. Antonio, guarda con questo, come va? Antonio, guarda con questo qua, va meglio o peggio? Anto, guarda questo, come va il microfono? Questo qua è il migliore come microfono. Ah. Io ne ho provato tre già, dai. Volevo sapere qual è il migliore. Non lo so, Anto, deve essere che la tua porta la vulcosa. Ma che lì. Però si legge, no? Che va il VM1000. Va, già va bene. La radio buona è satura o cosa. Prego. Buonasera a tutti, belli e brutti. Bombolino, buonasera, forte e chiaro da questa parte. Salutoni circolari a tutti. No, no, no, io sono ancora con l'antenna interna. No, la veicolare qui, piazzata nello studio. Come ti sta arrivando, Bombolino? KK, e su dalle parti di doppio run come stiamo arrivando? Benissimo Giuseppe, benissimo, io come sto arrivando con questo apparecchio nuovo? Qui sei 9 più 20 nella mia postazione, e tu Bombolì? La radio com'è Giuseppe? Come la senti la radio? Forte o bassa? La radio è bella, si sente che è bella amplificata. Caraga, va bene, ok. Fai un passaggio tu Antonio. Oh, casa, qui sei a manettone. E cosa stai usando Antonio? Ma cosa c'hai il VM1000 per caso? KK, radio da incorniciare, veramente bella, complimenti. KK, già andava bene, l'importante è sfondare. Bombolì. Ciao Giuseppe, Giulio Dora non sei in ascolto? Io non c'è, proseguite dai che devo fare la prova. KK, ciao Claudio, cordialità come sempre, ben sentito KK. Ciao Giuseppe, sto provando un base nuovo, è arrivato stamattina con un MB più 5 e volevo fare delle prove con Giulio, dai che gli ho mandato le foto. Ok, arrivi bene qua, 5.8, quasi 9, sì. KK, tu non c'è bisogno che ti dica niente, perché tanto qualsiasi cosa usi è da incorniciare. Questa non me la ricordavo, ci fa bene, dai, un Royce terza serie, non sapevo che microfono mettere, adesso le provo l'altro microfono, devo fare delle prove stasera, dai, con Giulio. Va bene, proseguite. Ehi, Giuseppe, com'è questo tempo di assenza? Eravamo anche preoccupati. No, la mia assenza è che quando c'è da rullare si esce, bene, sto rientrando perché non sono riuscito a convincerli di rimanere fuori, perché eravamo fuori col camper, farlo girare un pochettino, ma fosse stato per me io mi sarei fatto oggi e domani, so che ho già una riuscita. Avanti break, Achtung Germany. Vabbè, a parte break dopo ce ne andate. Fuglia, sì Giuseppe, oggi è una bella giornata a stare in giro, come mai non so voluto rimanere, non è convinto. No, è che chi deve far cosa, chi ha lasciato cosa in sospeso e compagnia bella. Adesso vediamo un pochino, perché tutto al più domani mattina facciamo una levatina e conosco un posto dove si sta da re. Sai che vuol dire da re? Ti puoi buttare le tue canne da pesca in acqua e se arrivi presto il posto è tuo e non te lo tocca nessuno. È una sorta di piscina. Ti puoi fare anche il bagno allora. Sempre bene anche tu. Ah, tanto, ammi una bacia di mozzi. Cazzo, mi hai fatto rimbalzare lo smitter qua. Cazzo, è forte. Cazzo, ogni radio. Sempre con DM1000 sei anche tu. C'è bene, non c'è bisogno di amplificato. Fai amplificata la radio. Tanto. Segnale è a bomba e radio di più, va bene che siamo vicini, però cazzo è come ha cambiato. Ma vuoi darti questa radio che poi ne uso altri microfoni, voglio vedere quale microfono va meglio. Aspetta, ti do io il via. Vai. Prove tecniche di trasmissione, prova radio, vediamo un pochettino con questo microfono, poi ne provo un altro, va? Adesso non ho risolto questo qua, ne proviamo un altro. Ora, guarda questo qua come va Giuseppe, se è meglio o peggio, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fai un passaggio. Ora 1, 2, 3, prova, cambio. Vai con l'altro. Questo è l'altro Giuseppe. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio, prova radio. No, a me sinceramente piace più questo. Comunque te li faccio sentire tutti e due. Occhio, occhio alla penna. E io... Questo è uno. Allora, questa è la prima, adesso ti faccio sentire la seconda, che a me piace di più. Volkswagen, ma non si chiede permesso prima di entrare, cazzo gna zichirriu. Sono tutto gonfio. Antonio. Buonasera carissimo Antonello, mannaggia. Molto po', bene mi ascolti. Ciao Giuseppe, sentito? Beh, ascoltato, prova qua. Guarda, vedere se ti piace questa radio, questo è un Royce, terza serie, con un MBP5, perché sto aspettando che mi chiami Giulio e Massimiliano, abbiamo fatto delle prove, gli ho mandato le foto, a vedere come va, se no ne ho altri di microfoni, secondo te bene va questa? Sì, è una bomba, perfetto. Ok, dai, poi faccio a lunga distanza con Giulio e con Massimiliano a vedere se va bene, dai, infatti sono 8, quindi non c'ho niente attaccato. Va bene Antonio, prosegui, dai, già sono in ascolto. D'accordo. Claudio. Dimmi Giuseppe. Ma dimmi una cosa, ma cos'è Palmare che stai usando? Palmare? Cappa, il microfono, il Palmare? Oh, anima BP5 è questa, ma ne ho altre 7-8 da provare su questa radio, devo vedere quale è quella che va meglio, ho capito. Questa è già buona, eh. Se vuoi ti mando la foto della radio che sto usando. KK, sì, se vuoi mi fa piacere, Clark. Niente, ti ripeto, come radio è da incorniciare, perlomeno io che ho qui l'antennino dentro casa, niente, è bella. Io dai, ci ho 8 watt, dai, poi lo trovo magari agganciato, adesso vediamo. Di lusso. Vai già, vedi un pochino cosa dici delle registrazioni. Come Anton, non ho copiato, scusami. Eia, vieni avanti, ma sei sempre con la bomba. Questo gatto quanto stai arrivando forte qua. E io come vado? Guarda, 1, 2, 3, prova. Allora, fai un passaggio di nuovo che ero distratto con il vedere un pochino il segnale. Cava, no, di radio mi interessa, come sta andando? Guarda, 1, 2, 3, prova. Sto provando un microfono. Allora, la radio è bellissima, bella, 9 più 25 qua, però tieni presente che il mio può essere sfalsato come segnale con l'antenna interna. Giuseppe, te l'ho mandata, K, adesso controllo. Se ti piace, questa è arrivata stamattina. Aspettando che il tempo migliori, perché i giorni scorsi c'era vento e niente, adesso devo organizzare uno di questi giorni, vediamo un po' di metterla su. Tanto ho preso una boomerang mia, non ho preso niente di serio. La boomerang è quella grande, sì, quella che ha il radialino di fianco, è leggera, ma poi per quello che interessa a me, Anton, l'importante è che ci sentiamo tra di noi, tra gli amici, è quello che mi interessa di più di tutti, farmi una chiacchierata tranquillo con gli amici, due risate, due scappate. Vieni avanti! Sono ciccio, Verona, ti sento forte, Verona! Prova Gigi. Attenzione Gigi da Verona, avanti. Da dove stai trasmettendo? Che zona della Sardegna? La mia città è Sassari. Arrivi forte a Verona, arrivi forte. Cava. La città è Sassari, nord della Sardegna. L'operatore è Gianni Doppiurun che ti super cordializza. Avanti di nuovo col QRZ e poi ti manderò gli amici da Sassari. Io sono Ciccio, sono in movimento a Verona, sto rientrando. Me lo dai un segnale di Santiago per cortesia di radio? Vai da 3 a 5 oscillante, da 3 a 5 oscillante. Scusa che sono sul 21 che sto facendo delle prove. Cava, dai, avanti bombolo, vediamo un po' se arrivi, dai. Aspetta, tu che sta attaccando un altro apparecchio. Sento? Sì, a caparocchio, dai. Ecco qua, Verona, mi ascolti? ascolti. Va, ciao Radio. Con questo come mi ascolti, a tu? Va bene, va bene, l'antenna che c'hai, stai andando alla grande. Ma la tappa, non metto, dove si è? Va bene, dai, sono sul 21, sto facendo le prove. Kappa. E Giuseppe, scusa che sono sul 21 con Massimiliano e sto cercando di capire quale microfono ci va questo Royce. Grazie comunque, ok, ti è piaciuto? Bellissimo, veramente bello, complimenti. Fate pure tranquilli e con comodità, vai, non c'è problema, vai Kappa. E allora, ci sentiamo dopo, ciao Giuseppe, ciao anche Antonio. Oh ragazzi, datemi 5 minuti che mi hanno chiamato da cucina. Dammi un attimo, tu. Che devo prendere gli occhiali, devo regolare questa cosa. Oh. Sì, sto provando una cosa. Così va meglio, dai, va meglio così anche tu. La regolazione, adesso non fischia più la colonnina, lo vedo. E basta trovare la regolazione già. Regolazione già. Già va bene. E te mi conta, Santu. Come mai? E a me mi tocca domani, dai. Ho fatto bucato oggi, domani tutta la casa mi lavo, adesso mi sto rilassando un po'. Sarà un'altra volta quando non è più voglia. Spera un attimo tu, controllo un'altra cosa. Controllo che vi gioco. Ora. 1-1, cambio. 1-1, cambio. Adesso va bene, dai. Adesso è attaccato. Però non voglio togliere l'eco, non mi piace, aspetta. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 3, prova. No. Hola, 1, 2, 3, prova. Così tolto l'eco, vero? Completamente. Hola. Avanti. No, è che parlano in tanti e non si capisce. adesso le prove le ho fatte tutte, là. Mi sono fatto un'idea. Tutti quanti con questa bella giornata se ne sono usciti, non c'è nessuno, frequenza, ui, allora come sei più da seduto io, ho fatto male che ho speso altri soldi. Visto là, te l'ho detto io. Lì attore squalo, ui, e beh, Tore. Sì, siete in affutito. Parosa. Certo, c'è mezz'ora provendo e riprovendo. Le prove bisogna farle, se vuoi uscire bene devi farle. Come mi ascolti in radio? Abbastanza bene, ti ascolto. Bella forte, Gabo! Questa tu, lo sai cos'è? Mani un 980 è questo qua. S9 non ce l'ho più io. L'ho avuto anche quello. Aspettano. Attenzione, binario 10, l'isola sarda fa chiamata, cambio. Mi copiate? Ehi, ciao Marco. Ehi, ma noto che c'è una portante a Santiago 9. Fa futti, intanto passano tutti, non mi interessa. Passano tutti, ci copre il QRM. Oh, è massacrante già, ero dalla tarda mattinata fino a tutto il pomeriggio, fino alle 5 programmando quella radio lì. Ah, vero, per quello che io non le accetto molto quelle radio, perché devi stare sempre Duchenne, vedi, mamma mia. E quella là quando lo possiamo fare quel lavoro? Guarda che lo puoi fare tu, ti mando le foto e lo fai tu, è una fesseria, non è necessario essere in due, tipo, cioè venire da te volevi dire? No, volevo lasciarti la radio a te, tu lo facevi, io ti ascoltavo e ti dicevo la regolazione giusta, capito? Ma lì la regolazione giusta è una sola, tutto a manetta, punto. L'hai sentita la differenza? No, non è che devi mettere una regolazione giusta. K. Ah, basta allora, dai. Ok, fai così, allora mandami la foto. E poi ci penso io. Bombolo, mi copi? Oggi Gianni c'è una propagazione spaurosa, ci sono in tutta Europa in FM e in banda laterale, in tutti i canali, bassi, alti, medi. Già l'ho sentita, ma ti stavo dicendo, pensavo che te ne fossi andato a fare un giro a Plattamona oggi, invece non ti sei mosso. Eh no, proprio perché ho dovuto fare questa cosa qui, ho deciso di farla oggi. Sai cos'è? Quella si fa una volta e poi non la tocchi più. Anche perché io ho scelto una programmazione particolare, molto molto particolare. Capito? Con cose di interesse. Bene, ascolta già, la modulazione com'è? Sto usando quello lì. Distanza dal mic è 3 dita. 3 dita dal mic, 1, 2, 3, 4, 5. Chiara Marco, non è amplificata tantissimo, ma è chiara. Antonio, questo è il Superstar 3009. Certo, microfono di serie. Guarda, così sto parlando vicino, 1, 2, 3, 4, 5. Così sono a 4 dita, Gianni. Dimmi cosa varia. No, scusa, rifammi il passaggio che l'ho distratto. Allora, vicino al mic, 1, 2, 3, 4, 5. E a 4 dita, 1, 2, 3, 4, 5. Non varia nulla, Marco, è uguale. È sempre bella, mi sa che conviene lasciare quelli di microfoni e basta, solo l'unico problema che c'è è che hanno la molla della spirale del microfono e di quelli dure. Eia, il bip c'è? Sì? Sì, pi? Ma è tipo 3009, tipo Super SAR? Eia, sì. Questo è quello che inizia con l'A. Eia. Cappa, bello, mi è piaciuto. Mi sa più bici. Oh, 910 la portante, ma credo che sia propagazione, mi già. Cavagava. Non sai che nelle spiegazioni poi ho guardato se c'era il coso, se c'era il service dell'apparecchio, invece non c'è. Quello l'ho già mandato, le spiegazioni quelle originali, gli ha mandato le fotocopie. Questo qui è in FM, Gianni, questo che arriva a 9,9P5, 9P10, è in FM, capito? Ecco perché sembrava una portante muta, è in FM, caspita. Io che andiamo in FM, io voglio provarlo, dai. Prova un po', dai, aiuto, in FM, Bombolo. Bomboli, aiuto. In FM, vai. Cazzo, questo qui in FM esce meno che in AM, lo sai, esce 15 watt, invece in AM 20. Ma se aumenti con il comando già pompa, ha voglia. Diciamo che non è pari, cioè l'uscita in AM e quelle in FM non sono allineate, sono diverse, bisogna stare a muovere avanti e indietro. E per esempio in questo MFM sono uguali, identiche. Oh, Marcolino. Avete parlato e vai Nathalie. Come la radio qua in FM, però ce l'ho a metà a me il microfono. Capito, ce l'ho a metà, ce l'ho. Volevo sapere se devo aumentare oppure lo lascio a metà in FM. No, in FM non c'è bisogno di aumentare. Sembra di essere in VHF, sembra. Comunque va bene l'FM di questo. Benissimo. E questo com'è? Questo è, non è toccato, Gianni, Bombolino, un parere. Questa è l'FM naturale, perché è delicata la regolazione FM. Vedete un po'? Un bijou. Stai andando bene, dai. Io come vado? Sono stati perfetti tutti e due, sia Marco che Gianni. Perfetti. Allora devo dire perfetti. Perfetto. Brecco, brecco. Perfetto ugualmente, Bomboli, arrivi bene. Avanti, Giuseppe. Ma questo è il fenomeno, cosa dice? Che sei un cuocuomane, con i baffi. Ciao Giuseppe, ben sentito, buonasera. Come sta lanciando in FM con questa radiolina? Già va. Va bene. Giuseppe mi copi, Marco da questa parte. Ciao Marco, certo chiaro come sempre, tappa. Comunque avete notato che quello che parlava in FM è sparito, c'era uno di propagazione in FM che arrivava a 9 più 10 anche, probabilmente l'abbiamo disturbato e ha cambiato canale lui. Gianni riprendi, se volete possiamo ripassare in AM. Ciao Bomboli, alle prossime. Ciao Antonio, ciao, alle prossime, ciao. Signori, io devo andare a cucinare qualcosa, dai. Rimango in cuore X. E fai così, Marco lì. Anche questo comunque è normale, l'FM, non l'ho toccata, Infatti quella è più delicata, quella va già bene così. Solo se dovesse essere troppo bassa va ritoccata, però non tocchese. Ciao, a dopo, vai Gianni. Gianni, hai sentito, non tocchese. vai, vai Gianni. Guarda, ti vado a lasciare il telefono. Ah, cappa. Io scappo, mi hanno chiamato la cucina, mannaggia. Se coincide ci sentiamo dopo, vai. Tanto la volta che mi chiamano lì è una tragedia. E andrà bene mela. Vabbè Giuseppe. Natalino? Poi, dimmi. Ma Giuseppe si sta sentendo, ho capito male perché ho cambiato canale un attimo. Ehi, l'hanno chiamato da cucina e quindi si è dovuto assentare. Ehi, ti volevo dire, l'ho programmato oggi, ci ho messo tutta la tarda mattinata e tutto il pomeriggio. Perché è stata una programmazione ad hoc, diciamo, particolare. Alla fine stavo schiattando, però tutto bene. Ehi, cappa. E che programmazione? Me lo devi dire su Skype magari per quando c'hai un po' di tempo la situazione. A me va bene così. Break. Avanti, break. Marco. Ultimo colpo. Ciao Natalino, ciao Marco. Sì, sì, dicelo, dicelo qua. Che programmazione, che interessante. Come dire, un po' di tutto, dai. Un po' di tutto. Comunque questo già lo sai, no? Fa 25 e tanti, 30, 105. Però sono disposti in modo particolare. Perché ho programmato 60 canali per banda. Allora lì ti devi azzuffare con le tabelle per non sbagliare corrispondenze. Come va in FM, Gianfra? No, va abbastanza bene, ma siccome anche io ho finito di programmare il station recorder, in teoria ti potrei far sentire in digitale, cioè quello che registra, quindi puoi giudicare tu, ecco. Ehi, approva un po', vediamo un po' in FM, l'FM è in tone, sai, vediamo un po' 1, 2, 3, 4, 5. E quindi lo manda a circuito chiuso, così e non c'è distorsione tipica dei registratori esterni. Vediamo un po' com'è. 1, 2, 3, 4, 5. Non so come esca, perché ripeto, sono in fase di programmazione, però ci provo a mandarla, vediamo un po'. Allora, abilitazione data. Vediamo un po' in FM, l'FM è buona, vediamo un po' 1, 2, 4, 5, quindi lo manda così, non è scione per dei redditori, vediamo un po' com'è, 1, 2, 4, 5. No, ho sentito spezzettare, era tutto, sembrava al contrario. Copiato Gianfranco? Sì, ho detto se sei in AM o FM, perché non si capisce una mazza. No, io sempre in FM, modulazione di frequenza. Ah, ok. Allora, questo succede, siccome ho dovuto programmare anche la soglia, la tua modulazione, dal picco che vedo, è piuttosto, come dire, è molto chiara, però è anche molto bassa, quindi per farti ascoltare senza quel wah wah wah che è il taglio, dovrei praticamente ritoglierla, cioè annullare, però tu capisci che quando si annulla tutti i passaggi vuoti vengono registrati sotto forma di QRM, no? La cosa che vorrei evitare in pratica, però dal picco rispetto agli altri qua mi dà 0 addirittura virgola 1, quindi insomma non dico che sia a livello di QRM come intensità, e dico attenzione, è chiarissima, però risulta una modulazione molto molto tranquilla, molto soft. Sì, ma tanto tranquilla in FM deve essere, qua non me la sento di toccare nulla, se no poi va a strappare, ecco, va bene, ho sentito qualcuno in AM. Se volete passiamo in AM, dopodiché vado ai fornelli, dai, stavo per andare poc'anzi. Passiamo in AM, Natalino, tutti quelli all'ascolto, aiuto. Hello, I'm Vector. Brenda from Czech Republic. Czech Republic, io sono qua. Hello. Ci sente? Sì, io sono qua. Ciao, buonasera a tutti. Marco. Dimmi tutto, caro. Ciao Gianfra, ciao, buonasera a tutti. Sto usando un Royce con un Tanner più 3, com'è? Bella, buona, che dire, fammela sentire a lungo. Vabbè, te la faccio sentire a lungo, ho fatto le regolazioni come segnano, e va bene, giusto per capire se c'è la differenza dall'altra radio, là, dal Cobra, ma mi ha detto di no. Ok, sono anche agganciato, quindi però una 30-40 watt, dai, non di più. Va bene. Hola, buona. Ehi, c'è uno in FM che ci tormenta, non so di dove sia. Sì, sì, benissimo. Guarda, c'è Gianfranco anche Natalino. Gianfranco è più, c'ha l'orecchio più, come dire, più pignolo del mio. Gianfranco, vai. Ah, se vuoi ti faccio sentire tutto il passaggio che hai fatto. In AM era regolato per l'AM, in effetti dovrebbe essere andato. Ti vuoi sentire qua, in versione hi-fi, diciamo. Io Claudio, molto ne hai. Aiù, piglia quel capaggiacchi che c'hai, faccio un giro, aiù. Non ho capito, che? Okay. È buia. Tutto saturo, e digli di staccare a Pomponio. Ma non mi sa che non è lui, è talmente saturo. No, infatti è Leoncino, non è Pomponio. Lasu, Marcolino, Claudio, aiuto piglia la moto, io andiamo a faccio un giro all'Alghero, aiuto. Sì, ce l'avevo stamattina la moto. Lasciate anch'io la moto, prima di me dove l'altrosi. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato, un abbraccio grande. Come va? Tutto a posto? Potrebbe andare meglio, dato. Sono qua a casa di Antonello, in attesa che si decida Antonello a mettermi a posto il mio, il baracchino, speriamo. All'anno che viene me lo metterà a posto. Antonello, come te lo gatturaggio, fa delle cose all'altri, cioè a lui, agli altri non le fa così, o al contrario, boh, non me lo ricordo, vabbè. Sì, Gianfra, mi sono già ascoltato, non c'è assolutamente bisogno, tranquillo, mi fido, era giusto per capire, perché ne ho provato tre di microfoni e questo è quello che prevale più di tutti, dai. Ok. Sì Marco, ti mando la foto, l'ho ritirato stamattina, così iniziamo la collezione di vere radio, capito? Di vere radio, e Royce io ce l'avevo, l'ho dato, adesso l'ho ripreso, capito? Ok, ti mando la foto, vai, continuate che sto facendo cose, va bene? Aspetta Claudio, non vuoi sentire il passaggio? Gianfra. Fatemelo sentire, non c'è problema, ma mi fido tranquillamente, non è che è giusto per capire quale microfono lasciare, sto lasciando il Tanner più 3 e gli altri li rimetto dentro l'armadio, dai. Se vuoi te lo mando, provo Bella, buona, che dire, fammela sentire a lungo. Vabbè, te la faccio sentire a lungo, ho fatto le regolazioni come segnano, e va bene, giusto per capire se c'è la differenza dall'altra radio, là, dal Cobra, ma mi ha detto di no. Ok, sono anche agganciato, quindi però una 30-40 watt, dai, non di più, va bene. C'è uno in FM che ci tormenta, non so di dove sia. Sì, sì, benissimo. Guarda, c'è già. Allora, è uscita? Sto bella voce, bella, bella, bella modulazione, mi piace Gianfra, grazie. E queste sono registrazioni serie. Bella registrazione. Marco, ti ho mandato la foto, è nuova, nuova, e sottolineo, nuova. Molto, molto, molto, molto bella. Terza serie, quella con tre strumenti, tutta in legno, bellissima, come quella che avevo io un periodo, dai. L'ho fatta senza microfono, così vedi anche la base di sotto quanto è nuova, è perfetta, eh? Ehi, caspita Gianfra, è una qualità ineccepibile quella registrazione a circuito chiuso. Cioè, Claudio già lo sa come, no? Registra a circuito chiuso e te lo fa riascoltare senza altoparlanti, no? Distorsioni, eccetera. Peccato che io abbia la voce un po' da, posso dirlo? A parole mie, da coglione, la mia voce. No, per me va bene. Ma è tutta nasale, non ho capito, così è la mia voce. D'altronde c'ho il setto nasale deviato e è nasale per quello. Va bene, signori, dai, c'ho i fornelli, sta bruciando tutto, devo andare, rimango in ascolto, ciao. Aspetta, Marco. Ehi, dimmi. Così sono col microfono normale, guarda come esce questa radio. Come esce? Normale. Diciamo, non è cristallina quanto il Galaxy, però Gianfranco, fagli il favore, registralo, faglielo sentire. A circuito chiuso è già, non c'è distorsione alcuna, cioè fa tutto l'apparato. Cara. Gianfranco, adesso ti utilizziamo per riascoltarci. Bello macchine. Marco, quando hai tempo manda quella foto. Ehi, dai, sono i fornelli, dai, che sennò non riesco a far nulla, dai. A dopo. Ehi, vabbè. Break. Avanti. Buonasera, salutone circolare a tutti. Adi, cazzo ti stavamo aspettando, come non sei passato? No, Claudio, non ho avuto tempo oggi di passare. Ehi, no, così provavo quelle gaine. Però se non mi porti quell'altro pezzo non posso fare niente. Ok, dai. Gianfra, fai questa registrazione che devi fare, dai, sono qua in quell'X. Tino, puoi passare al 20? Adesso sono impegnato, sto anche facendo un controllo sul radar un attimino. No, vabbè, per me va bene la registrazione, è alla grande. Daniele, sto usando il 3+3 con il Royce, Rolls-Royce. Va bueno, forte e chiaro. Ascolta, niente è cambiato il mio segnale. Questo è un po' generoso, mi sembra. 9+30 segua. Devo fare le comparazioni. Devo fare le comparazioni a vedere se è perfetto con gli altri. Non le ho ancora fatte perché stamattina mi ho impegnato sul tetto, che ho spostato la mantova da una parte all'altra e non ho ancora finito perché devo agganciare un tirante, ma glielo metto lunedì e poi devo fare una correzione, ma proprio un pelino sulle stazionarie, proprio voglio 0-0-0. C'ho 1 e 2, prima non ne avevo, quindi voglio fare questa correzione. Sì, 9+30 sì qua, Daniele. Caparrogio, dai, perché ha alzato 2 metri di più l'antenna, dai. Gli ho messo il pezzo mancante nel palo. Sì, allora, sicuramente è quello lì. Allora, va bene, perché eri già più 25 è abbondante, quindi sicuramente va bene, dai. KKK del Roger, ti mando la foto, Dani. La vuoi vedere, Roy, se lo ricordi, sì. Manda la foto, Claudie. Tutto è buono. K del Rosmetro. Dai, riprendete e vado a farmi una sigaretta, dai, un attimo di bianco per me. Ehi, già sono qua, Daniele, già sono qua. Avanti a chi tocca, parlate. Marco lì, ma non l'hai vista la foto però? È ancora bianco? Ragazza tua, via. Te l'ho mandata, Daniele, ogni mostro, nuovo. Allucinante. Più nuovo di quello che c'avevo io, cazzo, lucido, guardalo bene, va.